Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir, traduzione di Franco Lucentini. Un giorno d'ottobre Nadine mi disse: «Ho una notizia da darti». «Che notizia?» «Sono incinta». La guardai. Sapevo che i mezzi per proteggersi non le mancavano e le vedevo una luce maliziosa negli occhi. «L'hai fatto apposta?» dissi. «E con questo? È un delitto volere un bambino?» «Di Henri?» «Immagino», disse con un piccolo ghigno, «visto che è con lui che vado a letto». «E lui è d'accordo?» «Non ne sa ancora niente», insistei. «Ma lo voleva anche lui, questo bambino?» Esitò. «Non gliel'ho chiesto». Ci fu un silenzio. Dissi: «Cosa conti di fare?» «E cosa vuoi farne d'un bambino, salsicce?» «Voglio dire, conti di sposarti con Henri. Questa è una cosa che riguarda lui. Ma avrai anche tu la tua idea?» «La mia idea è d'avere un bambino, per il resto non chiedo niente a nessuno». Non m'aveva mai fatto parola di questo desiderio di maternità. Era per malevolenza che la sospettavo d'aver voluto soprattutto, con questa manovra, costringere Henri a sposarla. «Sarai per forza costretta a chiedere qualcosa a qualcuno», dissi. «Almeno per un certo tempo bisognerà bene che sia tuo padre o che sia Henri a prendersi questo peso». Si mise a ridere con un'aria di condiscendenza divertita. «Andiamo, dammi un consiglio, vedo bene che ne muori dalla voglia». «Ma poi me lo rimprovererai per chissà quanto tempo». «Dammelo lo stesso». «Non suggerire a Henri di sposarti senza essere sicura che ne abbia davvero voglia. Voglio dire, senza che ne abbia voglia egoisticamente, per se stesso e non soltanto per via di te e del bambino. Se no sarebbe un matrimonio disastroso». «Io non gli suggerirò niente», disse con la sua voce più acuta. «Ma chi ti dice che non ne abbia voglia? Certo, se vai a chiedere a un uomo se vuole un bambino si impaurisce, ma quando il bambino è lì è contentissimo. Io trovo che gli farebbe un gran bene, Henri, d'essere sposato ed avere una famiglia. La vita bohème non è più di moda». Dubitavo che Nadine potesse trovare una felicità nella vita domestica, ma era difficile immaginarla tutta dedita a un marito e a un bambino. E Henri, se l'avesse sposata per dovere, non gliene avrebbe poi serbato rancore? Non osavo fargli domande. Fu lui una sera che venne a parlarmi. Era venuto per vedere Robert, ma invece di entrare come al solito nel suo studio, venne a bussare alla mia porta. «Non vi disturbo?» «Ma no!» Sedette sul divano. «È su questo che operate?» chiese con aria divertita. «Sì. Volete provare?» Sorrise. «Sono venuto, in qualche modo, a chiedervi la mano di vostra figlia». Sorrisi anch'io. «Credete che sareste un buon marito?» «Cercherò. Diffidate di me?» Esitai, poi dissi francamente: «Se vi sposate solo perché fa comodo a Nadine, diffido un po'». «Capisco cosa volete dire», disse. «Ma non abbiate paura. La storia di Paul mi è servita di lezione». «No, prima di tutto tengo a Nadine. E poi vi sorprenderò, ma credo di avere la vocazione del padre di famiglia». «Beh», risi, «effettivamente mi sorprendete». «Eppure è vero. Ne sono rimasto sorpreso io stesso. Quando Nadine mi ha annunciato d'essere incinta, mi ha fatto un'impressione straordinaria. Non so come spiegarvi. Si fatica tanto per fabbricare libri che tutti criticano o drammi che scandalizzano la gente, e poi ecco, basta arrendersi al proprio corpo per fabbricare un essere vivo. Non un personaggio di carta, ma un vero bambino in carne e ossa. E senza fatica». «Allora», dissi, «spero che io mi scoprirò presto una vocazione di nonna. Immagino che vorrete sposarvi al più presto possibile. Come vi organizzerete? Avrete bisogno di un appartamento?» «Non abbiamo voglia di restare a Parigi», disse Henri. «A me anzi piacerebbe lasciare la Francia per qualche tempo. Pare che in certi angoli d'Italia si trovino case non troppo care da prendere in affitto. Ma intanto...» «Ma non abbiamo ancora avuto il tempo di fare molti piani». «Potreste sempre sistemarvi a Saint-Martin», dissi. «La casa è grande». L'idea non dispiacque a Nadine, ma non volle abitare il padiglione, per via di ricordi spiacevoli, immagino. Fece sistemare due grandi camere al secondo piano, lasciò il suo posto di segretaria, si mise a consultare libri di puericoltura e riprese i lavori a maglia. Avviò un corredino i cui colori violenti sconvolgevano allegramente ogni tradizione. Si divertiva molto, insomma, e sembrava in un periodo fasto. Henri si rallegrava d'essere sfuggito ai tormenti della vita politica e Robert non sembrava rimpiangerli. Dovrei vergognarmi, mi dissi quella sera. Robert e Henri stavano discutendo nello studio di Robert. Parlavano del piano Marshall, dell'avvenire dell'Europa, di tutto l'avvenire. Dicevano che i rischi di guerra andavano aumentando. Nadine li ascoltava con aria spaventata. La guerra ci riguarda tutti e io non prendevo alla leggera quelle voci inquiete. Eppure non pensavo che a quella lettera, a una riga di quella lettera. Attraverso l'oceano, anche le braccia più tenere sono fredde. Perché, confessandomi avventure senza importanza, Lewis mi aveva scritto queste parole ostili? Io non gli avevo chiesto ad essermi fedele. Sarebbe stata una cosa troppo sciocca, con tutta quell'acqua e quella schiuma tra di noi. Evidentemente mi serbava rancore per la mia assenza. Me l'avrebbe mai perdonata? Avrebbe mai ritrovato il suo vero sorriso? Intorno a me ci si interrogava sulla sorte che minacciava milioni di uomini, una sorte che era anche la mia, e io non mi preoccupavo che d'un sorriso. Un sorriso che non avrebbe fermato le bombe atomiche, che non poteva niente contro niente e che mi nascondeva tutto. Dovrei vergognarmi, mi ripetei. Davvero non mi capivo. Essere amata, in fondo, non è un fine, né una ragion d'essere. Non cambia niente a niente, non serve a niente. Neppure a me avrebbe servito a niente. Ero lì. Robert parlava con Henri. Quel che pensava Lewis laggiù, in che cosa mi riguardava? Per far dipendere il mio destino da un cuore solo tra milioni di altri, dovevo aver perduto la ragione. Cercavo di ascoltare, ma invano. Mi ripetevo, le mie braccia sono fredde. Dopotutto, pensai, anche il mio cuore è solo un cuore tra milioni di altri, ma basterebbe che i suoi battiti cessassero e questo vasto mondo cesserebbe per sempre di riguardarmi. Un solo sorriso o l'universo intero sono misure altrettanto precise della nostra vita. Scegliere l'una o l'altra è altrettanto arbitrario. Del resto, non avevo scelta. Risposi a Lewis e trovai forse parole propizie perché la sua risposta fu fiduciosa e serena. Da allora in poi continuò a tenermi al corrente della sua vita con lo stesso tono di amicizia complice. Aveva venduto il suo libro a Hollywood, guadagnato denaro, presa in affitto una casa sul lago Michigan. Pareva felice. Era primavera. Nadine e Henri erano sposati. Anche loro parevano felici. Perché non io? Raccolsi tutto il mio coraggio. Scrissi, vorrei vederla, questa casa sul lago. Lewis avrebbe potuto trascurare questa frase o dirmi, la vedrete l'anno prossimo, oppure non credo che la vedrete mai. Quando ebbi tra le mani la busta che racchiudeva la sua risposta, mi irrigidii come davanti a un plotone d'esecuzione. Non debbo farmi illusioni, mi dissi. Se non dice niente, significa che non vuole rivedermi. Spiegai il foglio giallo e le parole mi saltarono subito agli occhi. Venite alla fine di luglio, la casa sarà pronta. Mi lasciai cadere sul divano. All'ultimo secondo m'avevano graziata. Ma avevo avuto una paura così grande che sul momento non provai alcuna gioia. Poi d'improvviso sentii le mani di Lewis sulla mia pelle e chiamai in un soffio. Lewis. Thank you. Atterrai a Chicago, presi un tassì e questa volta trovai la casa senza difficoltà. Lo scenario era installato con precisione. L'insegna Shields rosseggiava di fronte al grande manifesto. Lewis, seduto al balcone, leggeva. Mi fece segno sorridendo, scese di corsa, mi prese tra le braccia e disse le parole previste. «Siete tornata, finalmente!» La scena, forse, si svolgeva con una precisione troppo fatale. Non sembrava del tutto reale. Si sarebbe detta una copia un po' sfocata di quella dell'anno passato. Ma forse ero sconcertata soltanto dalla nudità della camera. Non c'erano più stampe né libri. Dissi, che vuoto. Ho spedito tutto a Parker. La casa è pronta. Com'è? Vedrete, disse. Vedrete presto. Mi stringeva a sé. Mi cullava. Che strano profumo, disse con un breve sorriso stupito. È questa rosa? No, sono io. Non l'avevate una volta. D'un tratto ebbi vergogna del profumo più costoso di Parigi, del taglio studiato della mia blusa e delle mie sottane frucianti. Perché tutti questi artifici? Lewis non ne aveva avuto bisogno per desiderarmi. Cercai la sua bocca. Non avevo talmente voglia di fare all'amore, ma volevo essere sicura che mi desiderasse ancora. Le sue mani gualcirono la seta della sottana. La rosa cadde a terra, la blusa anche, e io non mi feci più domande. Dormii a lungo. Quando mi svegliai era mezzogiorno passato. Mentre facevo colazione, Lewis mi chiese: «Vi seccherebbe se sentissi alla radio una partita di baseball?» «Niente affatto. Leggerò i giornali». Cominciai un articolo e mi fermai, con la gola stretta. Me ne infischiavo dell'ultimo Faulkner e di tutto il resto. Avrei dovuto essere nelle braccia di Lewis e non c'ero. Perché? Quella partita di baseball non finiva mai. Mi decisi. «Sapete, Lewis, ho fame», dissi allegramente. «Voi non avete fame?» «Pazientate ancora 10 minuti», disse Lewis. «Ho scommesso 3 bottiglie di scotch sui giganti. Sono importanti, no? 3 bottiglie di scotch». «Importantissime». Quegli ultimi minuti mi parvero orribilmente lunghi. «Ho vinto!» disse Lewis con entusiasmo. S'alzò, chiuse la radio. «Povera piccola affamata, adesso vi nutriremo». M'alzai anch'io e mi detti una ravviata. «Dove mi portate?» «Che ne direste del vecchio ristorante tedesco?» «È una buona idea». Mi piaceva quel ristorante, ma aveva lasciato dei buoni ricordi. Chiacchierammo allegramente, mangiando salsicce con cavoli rossi. Lewis mi raccontò la sua visita a Hollywood, poi mi portò al bar dei Clochard e nel piccolo dancing negro dove una volta suonava Big Billy. Rideva, io ridevo, il passato risuscitava. D'improvviso pensai, sì, tutto questo è ben imitato. Perché lo pensai? Cosa c'era che non andava? Niente, proprio niente. Dovevo essere io a farmi delle idee. Il viaggio in aereo mi aveva stancata e anche l'emozione dell'arrivo. Evidentemente deliravo. Lewis mi aveva detto un anno prima, non cercherò più di non amarvi. Non v'ho mai tanto amata. Nel tassì che ci riportava verso il nostro letto, m'accomodai tra le sue braccia. Era lui, non era cambiato. Ritrovavo il calore ruvido della sua spalla, ma non ritrovavo la sua bocca. Non mi baciava. Poi, sopra la mia testa, sentii uno sbadiglio. Non mi mossi, ma mi sentii cadere a picco, in fondo alla notte. Pensai, deve essere così quando si è pazzi. 2 luci accecanti squarciavano le tenebre, 2 verità ugualmente sicure e che non potevano essere vere insieme. Lewis mi ama e quando mi tiene tra le braccia sbadiglia. Salii la scala, mi spogliai. Bisognava che gli facessi una domanda semplicissima. Già il pensiero della risposta m'agghiacciava, ma tutto sarebbe stato meglio di quell'orrore confuso. Mi coricai, si coricò accanto a me e si girò nel lenzuolo. Buonanotte. Già mi voltava la schiena, ma aggrappai a lui. Lewis, che c'è? Non c'è niente, sono stanco. Voglio dire, tutto il giorno, cosa c'è stato? Non m'avete ritrovata? V'ho ritrovata, disse. Allora non m'amate più. Tengo sempre a voi, molto. Ho molta affezione per voi, disse Lewis con voce accurata. Ma non è più amore. Non potevo più parlare. E del resto a che sarebbe servito? Mi strinse un istante. Non vorrei che foste triste, disse. Mi carezzò i capelli. Non ne vale la pena. Mi sentivo più estenuata che dopo una notte di febbre. Ecco, pensai freddamente. Niente è accaduto. È normale. La normale sarebbe stato piuttosto se un giorno fosse accaduto qualcosa. Che cosa? Perché? In fondo non avevo mai capito. L'amore è sempre immeritato. Lewis mi aveva amata senza una vera ragione e io non me ne ero stupita. Ora non m'amava più e neppure questo era stupefacente. Anzi, era molto naturale. D'un tratto le parole mi esplosero nel cervello. Non m'ama più. Si trattava di me. Avrei dovuto urlare a morte. Mi misi a piangere. Ogni mattina aveva detto: «Perché ridete? Perché siete così rosa, così calda?» Non avrei riso più. Aveva detto «Anne» e mai più l'avrebbe detto con quell'accento. Mai più avrei rivisto nel suo viso il piacere, la tenerezza. «Dovrò rimborsare tutto», pensai singhiozzando. «Tutto quel che mi è stato dato, senza che l'avessi chiesto. Dovrò pagarlo, il suo peso di lacrime». Una sirena gemette lontano. Venivano fischi di treni. Io piangevo. Il mio corpo si vuotava con grandi brividi del suo calore. Diventavo fredda e molle come un vecchio cadavere. Se avessi potuto sopprimermi del tutto. Del resto, finché piangevo, non avevo più avvenire, non avevo più niente nell'anima. Mi pareva che avrei potuto singhiozzare senza annoiarmi fino alla fine del mondo. La mattina mi svegliai di soprassalto. «Così è finito», mi dissi subito. Mi sedetti accanto alla finestra. Dietro di me Lewis stava imballando stoviglie. M'alzai. «Vado a fare un giro», dissi. Presi un tassì, mi feci portare fino al loop, poi camminai a lungo. Camminare è una cosa che occupa quasi quanto piangere. Le strade mi sembravano ostili. Avevo amato quella città, avevo amato quel paese. Ma le cose erano cambiate in 2 anni e l'amore di Lewis non mi proteggeva più. Ormai l'America non significava più che bomba atomica, minaccia di guerra, fascismo nascente. La maggior parte delle persone che incrociavo erano nemici. Io ero sola, disprezzata, perduta. «Cosa faccio qui, dunque?» mi chiesi. «Farei meglio tornare a Parigi». Guardavo l'angolo del viale dove già la mia partenza m'aspettava. Il tassì che m'avrebbe portato via stava circolando in qualche parte della città. Lewis l'avrebbe fermato con un gesto che conoscevo. Lo sportello avrebbe sbattuto come già aveva sbattuto 1 volta, 2 volte, 3 volte. E questa volta sarebbe stato per sempre. Perché questi 3 mesi d'agonia? Finché vedrò Lewis, finché mi sorriderà, non avrò mai la forza di uccidere in me il nostro amore. Di uccidere a distanza, invece, tutti sono capaci. E oggi i suoi amici venivano a prenderci in automobile. Non avrei avuto 1 minuto per andarmene a piangere tranquillamente in un angolo. «Anne? Evelyn? Ned?» Strinsi le mani. Sorrisi. L'automobile traversò la città, poi giardini e sobborghi. Evelyn mi parlava, io rispondevo. Traversammo un'immensa pianura irta di altiforni, di case in costruzione, di boschi ben potati e ci fermammo in fondo a una strada sbarrata da un'erba gigante. Un vialetto inghiaiato conduceva a una casa bianca. Davanti c'era un prato che scendeva in dolce pendio verso uno stagno. «Allora?» disse Lewis. «È magnifico!» In fondo al prato, accanto a un forno di mattoni dal camino che fumava, era seduta gente. Gridarono allegramente: «Benvenuti i nuovi inquilini!» Lewis mi prese per il braccio. «Venite a vedere la casa!» Ritrovai sul suo viso il fuoco allegro dell'impazienza. M'aveva già guardata un tempo con quel sorriso fiero. «Gli ultimi mobili arriveranno domani. Qui metteremo i letti. La stanza là in fondo sarà la biblioteca.» Sembravamo davvero una coppia di innamorati che stesse preparando il suo nido. E quando tornammo in giardino sentii in tutti gli sguardi una curiosità complice. La voce di Lewis era tenera e il suo sorriso complice. Mi chiesi d'un tratto: «Tutto è davvero finito?» «Dobbiamo battezzare la nostra barchetta», disse Lewis. «Che ne direste di chiamarla Anne?» «Ne sarei ben fiera.» Ecco che mi guardava con una delle sue espressioni d'un tempo. Ed era stato lui a proporre questa passeggiata da innamorati. Forse cominciava a stancarsi della sua falsa saggezza. Forse esitava a cacciarmi dal suo cuore. Tornammo a terra e presto i nostri invitati partirono. Ci coricammo insieme nello stretto letto sistemato provvisoriamente in fondo alla biblioteca. Lewis spense la luce. «Pensate che starete bene qui?» chiese. «Ne sono sicura.» Posai la guancia contro la mia spalla nuda. Lewis mi carezzò dolcemente il braccio e io mi strinsi di più contro di lui. Sentivo la sua mano sul braccio, il suo calore, il suo odore, e non avevo più orgoglio né prudenza. Ritrovai la sua bocca e il mio corpo fondeva di desiderio mentre la mia mano strisciava sul suo ventre tiepido. Mi desiderava anche lui, e tra noi il desiderio era sempre stato amore. Qualche cosa questa notte ricominciava, ne ero sicura. Fu all'improvviso su di me, in me, e mi possedette senza una parola, senza un bacio. Accadde così presto che rimasi interdetta. Dissi per prima: «Buonanotte.» «Buonanotte», disse Lewis voltandosi contro il muro. Una rabbia disperata mi prese alla gola. «Non hai il diritto», mormorai. Non un solo istante m'aveva dato la sua presenza. Mi aveva trattata da macchina di piacere. Anche se non m'amava più, non doveva far questo. M'alzai. Odiavo il suo calore. Andai a sedermi nella stanza accanto e piansi tutte le mie lacrime. Thank you.